a me pare un risultato che ha superato ogni più rosea attesa dal punto di vista della, come dire, comprensione anche della misura, perché era il bando che si faceva per la prima volta, credo siamo la prima regione in Italia a farlo, il numero di richieste è impressionante, ha due aspetti di positività. La prima, che abbiamo centrato una richiesta che era, come dire, evidente sotto traccia e che esplicitata da una opportunità è stata colta al volo da tantissime, da migliaia di coppie conviventi o sposate o solo conviventi. La seconda è che questa quantità di domande segna, verrebbe da dire purtroppo, perché significa aver trascorso e passato e non ancora finita la pandemia, ma visto che viviamo il tempo reale, certamente vi è una riscoperta della montagna anche a causa di questa tragedia. La possibilità di immaginare un distanziamento certo o più robusto che in altre parti dei territori, il fatto di avere a che fare con aria più pulita, eccetera, credo permetta e permetterà di avere un contrasto a quel cosiddetto spopolamento che abbiamo visto per decenni, che peraltro, a parte i 30 comuni del Crinale, negli ultimi anni era già stato, tra virgolette, superato, perché noi negli ultimi anni abbiamo un più davanti alla popolazione residente nei comuni montani, nella bassa e media montagna. Si tratta ora di introdurre carburante a questa, diciamo, misura. Il fatto di aver deciso che già al prossimo anno, nei primi mesi, raddoppieremo, e quindi non aumenteremo di qualche punto percentuale, ma raddoppieremo secco i 10 milioni che diventeranno 20, significa che andremo a fare un'operazione straordinaria dal punto di vista delle risorse e che con quel taglio medio che Barbara ha descritto, cioè quasi 30.000 euro davvero ad ogni finanziamento, permetterà da un lato di garantire e garantirci persone che continueranno a vivere o per la prima volta andranno a vivere in montagna e soprattutto famiglie giovani che hanno per gran parte figli e quindi l'investimento sui ragazzi e i bambini è l'investimento più forte sul futuro per quei territori, ma soprattutto il fatto che apriranno centinaia di cantieri che diventeranno migliaia nel corso di questi anni, cioè siccome saranno cantieri di taglio medio piccolo come dimensioni è molto probabile lavoreranno imprese peraltro del territorio o dei territori e quindi è un contributo anche alla ripartenza dell'economia, lavoro per imprese, maestranze, soprattutto su un settore, quello dell'edilizia, che è stato tra i più colpiti già nella prima, non ondata di Covid, nella prima recessione che vivemmo all'inizio della decade scorsa. Ora, questo raddoppio di impegno è un fatto, credo, molto importante che ci fa cogliere una necessità di priorità da trasferire sulla montagna. So che il ministro agli affari regionali Boccia, che è anche la delega alla montagna, sta lavorando col Parlamento e il governo per aumentare fondi per la montagna, per il paese. Se questo avverrà, noi ci auguriamo di poter avere accesso a risorse che potremmo direttamente trasferire anche su questo bando. Questa potrebbe essere un'ulteriore ipotesi positiva per il prossimo anno, ma vedremo. Di certo noi consolideremo fino a fine legislatura il finanziamento di 10 milioni all'anno, diventano immediatamente 20 e chissà che con disponibilità di bilancio ulteriori, magari addirittura con risorse nazionali, non si possa accelerare e aumentare ulteriormente questi 20 milioni che però sono qualcosa di molto importante. Da ultimo, presto avremo un pacchetto montagna con altre misure che possano dare il segno tangibile che questa scommessa, sia con l'assessorato guidato da Barbara Lori, sia sulla volontà di far star meglio la montagna, perché abbiamo sempre detto che se sta meglio monte sta meglio anche valle, noi daremo un segno tangibile di investimenti dalle infrastrutture alla banda ultralarga, a tutto ciò che serve per garantire anche impegno verso il lavoro. Proseguirà quella misura unica in Italia della riduzione dell'IRAP, addirittura portandola fino a 1.000 euro all'azzeramento e alla restituzione del 50% fino a 5.000 euro, che non cambia la vita ma è altro ossigeno fresco per le piccolissime, piccole e medie imprese della montagna. Più in generale lavoreremo perché il tema anche dei parametri su sanità e scuole possano essere modificati per dare una risposta che abbia sempre più attenzione a coloro che vivono, lavorano e studiano nelle zone montane. quindi noi siamo molto soddisfatti e credo che si possa con questo primo grande segnale aprire una stagione di forte investimento sull'Appennino emiliano-romagnolo da Piacenza a Rimini.